Allora, ci riproviamo. Pronto? Adesso sì. Adesso sento, anche se un po' distante, però sento. Va bene. Vai, vai un po'. A me come mi senti, Giova? Te sento distante, ma te sento, sì. Vabbè, ok, dai. Allora, proviamo a mandare, ecco, un po' più di volume in onda. E sì, ci siamo. Allora, Giovanni Torpedos, già una conoscenza che avete fatto da queste parti. Ci vuoi parlare di quello che succede, visto che abbiamo stasera chiamato in studio? Hai sentito, anzi, l'ho visto. Ok, sì, allora, buonasera a tutti e a tutti. Pratica, sabato 4 marzo, come penso già sapete, ci sarà il concerto nel Tendior Ground Fest parte 2, quest'anno in collaborazione con Radio Onda Rossa, e abbiamo ritenuto giusto collaborare con questa realtà, non soltanto perché è importante per la nostra sottocultura Skinhead, perché comunque negli anni, sia con l'esperienza di Ivadata ma tantissime altre persone che sono passate per la radio, e hanno influito decisamente sulla nostra sottocultura, sia skin che punk. Quest'anno comunque ricorre il 20° giusto anniversario. Non vorrei fare una gaffa. De che cosa? Della radio? Della radio. Ah no, no, della radio no, siamo al doppio, esattamente. Al doppio, esattamente. Ah, ok, sì, sì. Va bene, no, a parte questo, comunque la serata suoneranno, si farà il cesso a Ex Mia in via Prendicina 173, e la serata inizia alle 19, e suoneranno The Unborn, che è una nuova band appena nata e unisce horror e steampunk, e i Tour L'Amour da Pavia, che fanno del steampunk, e gli Assedio dalla Tuscia, e i fan da Roma, gruppo storico romano, e poi gli altri due gruppi sono i Bull Brigade da Torino e gli Affluente da Ascoli Piceno. Quindi sarà una serata abbastanza variegata tra punk e oi, e inoltre tratteremo comunque argomenti come l'antisessismo e lo spaccio all'interno dei centri sociali. E niente, l'entrata costa 5 euro, e come già detto inizia alle 19, ci sarà anche la possibilità di cenare all'interno dello spazio, e venite tutti e tutte per supportare la serata. Ascolta, ci hai detto, appunto, hai fatto un po' la presentazione. Sì. Della serata, no? E se andare a citare, al di là appunto delle cose importanti, poi magari dopo con Sergio ne parleremo ancora, però se andare a citare innanzitutto il lavoro che state facendo voi come Torpedos Roma, che ha portato a Roma negli ultimi mesi, insomma, sì, band del calibro di Angel Capstars. E appunto in questo frangente Bull Brigade, che forse sono, senza togliere nulla agli altri, la band che più, certo, si spinge in questo momento, e nomi storici, cioè abbiamo Affluente e Fan, che più o meno appartengono alla stessa generazione, sì, degli anni 80, diciamo dell'inizio degli anni 80, e delle band invece che appunto appartengono a un passato o a un presente, un passato più recente o a un presente, di quello appunto del movimento che diciamo prima, punk o skinhead. E voi ci avete mediamente, perché vi conosciamo eccetera eccetera, sì, ci avete 25 anni, insomma, quando... Sì, mediamente sì, tra i 20 e i 25 anni, anche ci sono ragazzi più giovani e ragazzi più giovani. Ecco, che cos'è che vi ha spinto appunto poi di andare a rivangare poi nel passato e andare a portare appunto questi grandi blasoni? Non voglio dire il passato, perché sennò veramente sembrerebbe, invece no, proprio del presente, insomma, tutto sommato. Ma, se suonano ancora e ci hanno voglia di suonare, perché ancora ci hanno qualcosa da dire. Ma sì, ma anche perché principalmente noi come crew, anche se siamo nati recentemente nel 2014, diciamo che siamo un po' nostalgici, ma anche abbiamo grande rispetto per quelle che sono le nostre origini e le nostre radici. Quindi, come si suol dire, senza memoria non c'è futuro, no? Quindi per noi è importante riportare comunque, cioè fare un'unica fusione tra vecchia generazione e nuova generazione, perché pensiamo noi giovani che comunque la vecchia generazione ha tanto da dire e tanto da insegnarci. Ne parlavamo anche l'altra volta in trasmissione con in onore del memoriale per Roberto Massi Patata, che comunque siamo una generazione, non dico perduta, ma abbiamo comunque bisogno di punti di riferimento, che sono sì la nostra sottocultura di cui siamo orgogliosi di appartenere, ma anche riscavare le radici in qualche modo, sono motivo di spunto di riflessione, ecco. Quindi il passato ha tanto da insegnarci. No, vabbè, hai risposto in maniera molto diplomatica e precisa, però era un complimento il nostro, credo, che Sergio... Sì. Ma sai, io adesso sento, poi con Edoardo ci sentiamo anche un po' in privato, per cui proprio tempo fa mi chiedeva di alcune storie, perché è un ragazzo... Ma sì, ma perché io poi sono molto curioso, mi affascinano le storie del passato, quindi... Ecco, secondo me poi siamo molto critici sulla realtà attuale, ma grazie per il complimento. Comunque no, nel senso mi sentivo di rispondere in questo modo, perché comunque è una cosa che tutti i membri del gruppo ci sentiamo proprio, nel senso comunque abbiamo ancora tanto da imparare dal passato per poter guardare al futuro. Ma penso che c'è pure tante energie e tanta voglia di fare, che magari a noi insomma un po' più così alle volte manca, ma non perché non ce l'avremmo dentro, che proprio manca le energie fisicamente di fare le cose, perché l'impicci, la vita insomma poi si complica notevolmente e molte volte è difficile. No, ma sì, ma poi comunque noi, scusami se ti interrompo, è perché cioè, abbiamo avuto anche la necessità di, non c'è stato un vero e proprio scambio generazionale, però lo scambio, quindi la possibilità di confrontarsi con un'altra generazione ci ha dato anche una piccola spinta per riportare una scena a Roma che, nonostante ci siano ancora compagni e compagne che organizzano concerti, prendo l'occasione per salutare Teschio e Marinaio, che sono e Roberto ovviamente, che mo farà il festival il 21 e il 22 aprile, che sono le colonne portanti della scena romana. Noi comunque cerchiamo di non dare voce anche alla nuova generazione attraverso i nostri concerti, che oltre a portare contenuti politici sono comunque momenti di aggregazione per la nostra sottocultura. Sergio? No, volevo aggiungere questo, perché chiaramente... Non ti abbiamo presentato, eh? Sì, buonasera a tutti. Sergio è la voce storica dei fan e uno dei due fondatori originali, che è tuttora ancora... Sì, sì, sì. Infatti sentivo Giovanni, e quindi aggiungevo prima anche delle cose, perché c'è una grande curiosità da parte di questi ragazzi un po' di scavare nelle storie del proto-punk e del proto-oi che noi abbiamo vissuto. Ma io, sai, certe volte mi meraviglio, perché mi sembra una prosecuzione naturale, cioè nel senso che poi anche le cose della vita mi hanno portato a vivere insomma con questi ragazzi. Io sono ormai alla soglia dei 60 anni, però non c'ho, anche nel confronto con loro, anche nei concerti quando ci vediamo con gli altri gruppi, è la carta d'identità che poi alla fine, però mi sembra così tutto quanto normale, tutto naturale, sembra una prosecuzione di quello che era 40 anni fa, capito? Cioè, purtroppo non è cambiato. C'è una scintilla che rimane dentro e sì, che comunque che, quella comunque, cioè, si riconosce. Che comunque annulla, come dire, la differenza generazionale, il gap generazionale, perché poi alla fine diciamo le stesse cose e combattiamo per le stesse cose per cui combattevamo 40 anni fa. Non siamo capaci, non siamo stati capaci quasi di fare. Cioè, io ti dico soltanto questo, che buona parte dei pezzi, almeno quelli nostri, dei fan, sono, che stiamo riproponendo adesso, sono pezzi che sono dei 40 anni fa, 35 anni fa, sono stati composti. Alcuni, comunque attuali, ecco, alcuni toccano. Questo è preoccupante, però, perché appunto cioè, noi volevamo in qualche maniera cambiare il mondo, evidentemente sì, ci cioè, siamo persi qualche pezzo. Alcuni toccano delle tematiche che però ecco adesso insomma mi sembra, io ho avuto dico ma saranno ancora attuali, ma sarà anacronistico, invece no, mi rendo conto perché anche nei testi, anche nei gruppi diciamo dell'ultima generazione, poi le tematiche sono quelle, magari cambiano, cioè, noi una volta parlavamo di Democrazia Cristiana, adesso magari cioè, è il punto del PD, cioè, cambia magari poi il soggetto, però la situazione è sempre quella, cioè, perché questo a dimostrare che tanto con le elezioni non risolvi niente, insomma, e questo non cambia già ci nulla, sembra quindi. un buon principio. Va bene Giovanni, senti, noi non lo so, ascolteremo un po' di Fanna, se vuoi rimanere ancora in onda magari pensiamo anche... Vi seguo tanto, vi stavo già sentendo in trasmissione. Ah, perfetto. Allora, io comincerei, poi magari Sergio mi aiuta, se lo ritrovo, eccolo qua. Comincerei forse con la cosa... La più famosa. La più famosa, che gira dappertutto, che c'ha tot visualizzazioni su YouTube, sì, che sì. Gira pure sull'automatico della radio spesso e volentieri, quindi partiamo sì. Così, dai. Oh, Allora ci siamo tornati in onda. Oh, adesso ci sentiamo pure bene. Vedi, vabbè, questo è il mixer della radio che reclama manutenzione. Allora, come voi, vabbè, pezzo storico. Pezzo che noi... Però te vedevo che ancora, cioè, comunque ancora su quelle ritmiche, sul riff, ma agitavi. Come noi e come voi, era un pezzo che era un momento particolare, per cui era un periodo, diciamo, di transizione tra la vecchia militanza e la nuova, no? Quegli anni lì. Per cui si affacciava in Italia il punk, lui, e almeno da una certa parte dei compagni che ancora, diciamo, un po' reduci del... Ci stavano un po' dei problemi di comunicazione, esatto, fra gli uni e gli altri. Esatto, cioè, certi atteggiamenti venivano ritenuti un po' troppo provocatori, un poco ortodossi, no? Certo. Rispetto. E quindi, diciamo, come voi chi era lo sti ragazzini del 18-19 esatto, anni, esatto, che comunque, cioè, in realtà era proprio, ce l'avevano con la politica, no? Dire, no? Siamo come voi, cioè, il discorso di affanculo la politica non era in senso, diciamo, qualunquista, certo, era praticamente proprio questo formalismo, questa rielaborazione di un modo di fare politica, certo. Quindi dice, ed era questo qui, nel senso, attenzione, dico, noi siamo come voi, tant'è vero. E poi facemmo un altro pezzo che era Skinhead, dove praticamente, cioè, proprio eravamo più espliciti in questo concetto, perché sul ritornello poi se la metterà si sentirà, non è che... Beh, lui è esplicito comunque, sì, non è che stiamo a dire, nel senso che... Sì, sì, diciamo, rispetto al punk, almeno al primo punk, che poi quasi tutti quanti i gruppi all'epoca, almeno i primi c'erano dei testi in inglese, certo, per cui riuscivi veramente poco a capire. No, lui, che era cantato in italiano, che all'epoca sembrava quasi un linguaggio che stonava con quel tipo di musica, perché essenzialmente sentivi il riff, la distorsione, e diciamo, Sex Pistols praticamente hanno fatto scuola, no? Certo. Per cui non suonava bene, però poi siamo andati a oggi, cioè, effettivamente. Anzi, c'è proprio una scuola, c'è almeno la nostra scuola, la nostra scuola di pensiero già da allora era quello che comunque sì, dovevi comunque comunicare qualcosa. Certo. Poi fan, nel nostro caso, fan in inglese significa divertimento, per cui, cioè, c'era una specie di sorta di invito al disimpegno, ma mantenendo un certo tipo di impegno. Certo, a rompere con, come dici te, con certe, esatto, ortodossie. Roberto Perciballi, esatto, insomma, compianto, ha fatto un'intervista qua un annetto prima d'andarsene, in cui ci raccontava pure le sue esperienze di quegli anni lì e di come, ad esempio, fosse rimasto così abbastanza scioccato dalla famosa assemblea del rettorato all'università, in cui due grosse, che una è l'autonomia e l'altra è la OPR, si resero assediate e lui rimase in mezzo a sta storia. Insomma, forse un po' questo tipo pure con lui proprio affrontavamo questo problema, forse era proprio questo tipo. Roberta all'epoca era presa, io lo ricordo bene, insomma, era proprio il prototipo della provocazione. Cioè, ma anche a un anno fa, cioè, lui comunque è stato provocatore per tutti i 50 anni e passa che si è vissuto. Poi chiaramente, cioè, lui negli anni ha acquisito una sua veste di provocatore che era proprio sua, insomma, certo, inizita, capito? Cioè, in quegli anni lì però era provocatore anche in quanto punk, capito? Sì, sì, sì, sì. Per cui c'aveva. Ma devo dire che poi, chiaramente, come tutti, io ricordo soltanto, cioè, proprio l'episodio che a me mi fece fare questa riflessione, fu proprio il concerto dei Talking Heads nel 1980 al Palasport. Sì. Dove effettivamente giravano dei panchettini, insomma, che magari c'era una svastichetta che però c'aveva quel significato che non era quello che si pensava, che scimmiottavano sui Vicious, certo, certo. E chiaramente furono pestati de botte. Io mi ricordo che andammo, io con altri compagni, andammo a vedere questo concerto, io ancora non avevo fatto una scelta precisa, certo, sulla nuova, no? E quindi devo dire che pure tra i compagni c'è una riflessione su quello che effettivamente si stava facendo, come si stava sviluppando, certo, sta cosa, certo. E poi chiaramente cresciuto. Si è cominciato a comunicare, si è continuato pure a pistare, insomma, sì, però sempre. La dialettica è stata sempre stata. E comunque siamo arrivati al giorno, io devo dire, te ripeto, con tutti quanti questi ragazzi io ho la fortuna di frequentarli, c'è quasi una continuazione naturale di quello che noi dicevamo allora, facevamo allora, perché tanto in ogni caso le tematiche sono sempre quelle, capito? E non si risolvono, stanno sempre lì, capito? Probabilmente adesso c'è, rispetto allora, c'è un modo diverso, pure una forza diversa, anche delle possibilità diverse, perlomeno diciamo abbiamo i censi sociali, allora non c'erano, capito? Per cui c'è solo le radio, ecco, Radio Onda Rossa è nata nel 77, mo sono 40 anni, e quindi c'è una realtà che perlomeno alternativa, che perlomeno ti concede qualche spazio per poter almeno dissentire di qualcosa, capito? Allora Giovanni, proprio comunicazione è l'elemento, no? Che poi mettevi te prima un po' l'accento, così dicevi, per poter comunicare, perché poi quello a noi che ci interessa. Quali sono le forme che state sperimentando, che stiamo sperimentando insieme a voi, rispetto appunto a questi criteri di comunicazione? Quali sono gli argomenti in questo caso e in altri casi che ci piace affrontare e magari approfondire? Sì, comunque noi ribadiamo sempre il concetto che per noi appunto i concerti sono sì momenti di divertimento e di aggregazione, ma anche sono iniziative per trasmettere un determinato messaggio. Non a caso gli Angelic Upstarts, il titolo della serata era Solidarity Fest, e il tema era incentrato sulla solidarietà. Questa volta invece abbiamo deciso di incentrarlo appunto sull'antisessismo e sullo spazio all'interno di spazi, perché comunque sono temi che andrebbero un po' ripresi all'interno della nostra scena e ridiscussi un attimo, perché abbiamo notato noi comunque che sono stati abbandonati da un bel po' di anni. E non vogliamo dire che si è creato un vuoto, o comunque questo non parlare, discutere di questi determinati argomenti ha portato a fare determinate cose, ma comunque è sempre giusto tenere il punto, ecco. Quindi abbiamo anche visto ultimamente con i fatti di Parma, vabbè, non mi va neanche di parlarne proprio approfonditamente, ma comunque durante la serata siamo appunto alle compagne e compagni sia di Radio Onda Rossa della SNIA, e noi stessi cercheremo di fare, anzi faremo proprio degli interventi su questi due argomenti, proprio per approfondire, per non lasciare nulla di intentato, per cercare pure al limite di capire e di estrarre quello che poi è un po' pensiero comune, che magari può essere pure sbagliato, può essere sbagliato, ha preso delle derive che magari non ci piacciono, però questo non lo sappiamo fino a che appunto non facciamo esprimere pure la gente, no? Sì, poi comunque anche sentendo la canzone Come voi, in qualche modo, cioè nel senso, il fatto che la nostra sottocultura skin e punk è, c'è un altro intervento sotto, sento che è un quadrupede, mo infatti mi sposto, no fa parlare pure lui, magari c'ha pure lui delle cose. No, volevo dire appunto che stavo dicendo di, no, appunto la nostra sottocultura, che come sentivi come punk, voi stavi sentendo è facilmente attaccabile, no? Nel senso che spesso e volentieri in questo momento di aggregazione svago, spesso vengono certi messaggi, vengono fraintesi, o meglio passa l'immagine dello skinhead ubriacone che poi non è solo quello, ecco. Quindi voglio dire che qualche volta c'è pure, le sbronze se le siamo prese tutti, sì, però comunque bisogna sempre imparare anche da quelli, intendere che comunque la nostra sottocultura sta all'interno di un determinato contesto, certo, sia politico ma che sociale. quindi proprio per questo motivo abbiamo deciso di affrontare questi due argomenti. Ripeto appunto che proprio perché la nostra sottocultura spesso viene attaccata e spesso ci sono etichette perché determinate persone si comportano in un determinato modo. Ma proprio perché è una sottocultura che va a prendere poi dalla strada, cioè non è che ma va a prendere sì, da qualche college ed è molto variegata, quindi insomma, c'è sta tutta e c'è sta pure l'autogestione, diciamo, pure della strada in qualche misura. Esatto, sì, ma quindi saper poi comportarsi spontaneo, quindi no, non è che ci sono appunto dei paletti oppure c'è la Bibbia della sottocultura. Queste cose ovviamente noi le rifiutiamo, ma comunque è sempre importante capire il contesto in cui la nostra sottocultura si è negli anni è cresciuta, si è evoluta, che è quello appunto dei centri sociali. Certo. Va bene Giovanni, per ora dai, ti ringraziamo così, magari avremo modo da qui a sabato di fare qualche altro intervento con voi. Ottimo, sì, e magari. Poi ci sentiamo e ci vediamo senz'altro sabato. Vuoi ripetere sì. Dove? Sì, al CSA Ex Mia, via Prenestina 173. Si parte alle? Alle 19. Mi raccomando, venite puntuali così si supportano tutti i gruppi. Tutti i gruppi, sento, se no chi suona primo, al solito cioè, c'è quattro persone sotto, invece possiamo cominciare a mangiare e a bere perché la cucina esatto, sarà in sì. funzione, insomma, e sì. Ci vediamo questo lunga serata, insomma, fatta di sei concerti. Esattamente. Giovanni, mi raccomando, le birre sul palco. Ovviamente, se ci saranno. Sì, al di là di tutti i discorsi, cioè, poi, giustamente. Giustamente ci stanno pure le birre sul palco, quello è ovvio. Va bene. Ok, allora dai, ti ringraziamo, dai, ciao. A presto. Ciao. A sabato. A sabato. We'll be right back. Allora, ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato Nazi Israele, sempre fan, proprio perché abbiamo scelto questa traccia, proprio per indicare quanti anni c'ha Nazi Israele. Nazi Israele è stata composta nell'83. Altra situazione, sì, che non è cambiata molto. Non è cambiata molto, perché noi quando la componiamo sul testo c'è riferimento alla guerra dei sei giorni, che chiaramente, certo, è ancora antecedente. Lì parliamo degli anni 60, certo, ma era fresco, se ben ricordo, della strage di Sabra e Shatila. Sì. E per cui questa cosa ci colpì e ci sentimmo, perché chiaramente c'è stata, come ancora c'è grande confusione tra quello che è sionismo e quello che è l'ebraismo in generale, certo, quindi cerchiamo un po' di puntualizzare, era un po' un pezzo un po' coraggioso per l'epoca, però ci sentimmo di farlo, insomma ci sentimmo di farla sua denuncia, cioè, noi eravamo contro tutti i nazismi, capito? In, certo, qualunque modo si manifestasse. Sì, vabbè, poi la questione israeliana, insomma, è sempre stata molto complicata, perché poi dietro, certo, appunto questo fatto qui c'è sta sempre che quando ti attacchi Israele diventi antisemita, no? Esatto. Quindi tutto questo gioco che sembra quasi esatto, ma questo rientra un po' anche questo pezzo qui rientra un po' in quella tendenza, cioè quello che noi sentiamo, quello di rompere un po' uno squarcio di perbenismo, capito? Certo. Di sinistra, capito? Sì, sì, sì. E comunque pensavamo quando l'abbiamo fatta, cioè, vabbè, è attuale adesso, chissà, fra 30 anni, no? Invece ancora è drammaticamente oggi ci abbiamo avuto al Campidoglio che BDS internazionale è andata a fare una BDS, sarebbe boicottaggio di investimento sazioni, no? Che sarebbe la campagna che ci sta mo per cercare, sì, pure in termini pacifici, molto tranquilli, insomma, di badate bene, cerchiamo di fare un blocco Israele e di cambiargli le politiche, mica di fa chissà, certo, quale, cioè di fa riflette meglio quello Stato e la popolazione di quello Stato su quanto è attraverso appunto un metodo che funziona in Sudafrica, eccetera, eccetera, e invece comunque c'è sta sempre da quella parte un'opposizione irriflessiva, proprio assolutamente non. Vabbè, insomma, stiamo da capire. Entriamo comunque in discorsi, sì, discorsi dove stanno degli interessi economici che comandano, esatto, e che comunque, esatto. Cioè poi alla fine va a finire sempre sullo stesso. Il discorso, sì, è talmente complicato oggi quando cerchiamo di fare gli internazionali, come vorremmo essere internazionalisti, però è un grandissimo rischio, perché non sai effettivamente, e parli del Donbass e non sai bene quello che dice, certo, parli della Siria e non sai bene perché non conosci le situazioni, sono talmente complicate, e parli del Kurdistan e comunque è una situazione comandata da potentati economici che sfuggono un po' alle realtà, capito? Sì, poi insomma, almeno negli anni 80 c'era questo fatto che vorremmo intendere noi, che c'era questo mondo bipolare, quindi tutto sommato tutto sì, era semplificato, poi era complicato uguale, cioè, sì, era complicato uguale, però tutto era semplificato. Dei punti di riferimento, perché cioè, vabbè, de qua diciamo adesso non c'è più. Dall'altra parte c'è Putin, che a secondo dei momenti, a secondo degli interessi, diventa un eroe e diventa pure un dittatore. Sarebbe molto più difficile fare dei testi politici. Molto. Magari continuiamo a parlare invece della strada, di quello che ci circonda, e lì io direi è di sì, più facile. E infatti io vedo che parecchi dei gruppi attuali, insomma, diciamo che hanno dei testi un po' più, come dire, un po' più intimisti, introspettivi, dove si analizza poi effettivamente quello, prima di capire quello che dobbiamo fare, dobbiamo capire pure quello che siamo, capito? Sì, pure perché dei impicci ce ne avevamo parecchi pure, esatto, noi oggi, non è che fra disoccupazione, mancanza assoluta di prospettive, eccetera, eccetera, c'è sta terreno fertile per, sì, il pancoi, insomma, per poter esprimere. Per carità, cioè, ormai il concetto di patria e nazione, cioè, oppure comunque, vabbè, guardiamo, c'è i problemi nostri, no, non è quello. È che comunque, secondo me, bisogna trovare un equilibrio, capito, tra quello che dovremmo fare qui e quello, è tutto quanto quello che è al di fuori, capito? Cioè, perché tante volte magari l'internazionalismo diventa quasi come un alibi per poi non prende una posizione qui, capito? Certo. Oppure per rifugire da certe cose, da quello che accade qui, capito? Va bene, io so che devi più o meno scappare. Che cosa, come lasciamo, come ci lasciamo, che cosa mandiamo per le strade? Che ma penso sì, ecco, che abbiamo sia... parlato delle strade, la mandiamo io per le strade. Per le strade è la cover di Nabat, no? O no? No, quella è... oddio, come giorno. Perché vabbè, ne dobbiamo almeno un'altra 3-4. I per le strade è un pezzo nostro che parla proprio, parla proprio della per strada, le strade, della, sì, no, no, della invece... realtà del quartiere in cui poi ci siamo formati, che è la Centocelle. Scenderemo nelle strade. Scenderemo nelle strade, strade, il pezzo della cover de Napa. Sì, c'è ragione, sempre de strada sarebbe. Perché poi, appunto, dicevo, c'eremmo modo e dovremmo magari schedulare delle altre puntate, perché poi potremmo aprire tutti i vari capitoli di storia anni 80 e 90 della scena romana, della scena bolognese, della scena milanese, esatto. Come poi alle volte si è pure un po' scazzato con l'ISO pure fra le varie impostazioni. Beh, diciamo che io un po' ho visto, tra l'altro anche ultimamente ho visto dei filmati, dei film che sono usciti su tutta quanta la situazione. Sì, mo si sta facendo un sacco di letteratura, sì. Su quel secondo me quella romana, che forse era un po' in ritardo, forse diciamo era meno all'avanguardia della scena milanese, certo. o bolognese del nord-est. Fiorentino. Comunque credo che ci abbia una sua, forse è un po' più stradaiola, diciamo, come sì, sì. Già quella era già più intellettuale nel senso buono del termine, forse sarà un po' trascurata qualche cosa. Secondo me va raccontata. Anche perché un po' il centro della situazione era all'epoca, negli anni 80, era Centocelle. Alla fine, sì, che era un quartiere, sì. oggi già è diventato un quartiere un po'. All'epoca era un quartiere di periferia, sì, pura. All'epoca c'erano ancora delle fabbriche che funzionavano intorno, e quindi Centocelle era in realtà un quartiere dormitorio, operaio. Era un quartiere operaio, dormitorio, certo. Dove effettivamente nulla c'era. O addirittura contadini, cioè Centocelle, per dire, ci abitava mia madre, c'era vicino e campagna, c'era mio nonno, sì. Che era agricoltore. C'era una situazione veramente sottoproletaria vissuta, vera. Certo. E per cui proprio si crearono allora questi spazi, diciamo, d'aggregazione, che probabilmente in altri quartieri erano già meno, è diventato un punto di riferimento, perché evidentemente c'erano i figli d'estoperai che stavano lì, che comunque non c'erano una prospettiva se non quello di vedersi dentro una piazzetta. Certo. E dove è successo, diciamo, questo fenomeno, si sono recepite certe, c'è stata la capacità di recepire certe avanguardie che venivano da fuori e farle e caratterizzarle secondo il kids romano, esatto. È stata un'operazione che secondo me è interessante, che andrebbe pure un po' indagata, insomma. Sì, va bene, dai. Te lascio, perché veramente se no potremmo parlarne per ore. Ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo sabato, dai. Alla SNIA. Puntuali, come ha detto Giovanni, alle 19 si inizia, e poi ci sarà il DJ set, immagino, non so di chi, non si sa. Boh, forse sì, poi dopo lo leggiamo. Mi sembra essenzialmente sono 6 concerti, poi sì. Ci saranno delle interlocuzioni, ma forse non ci abbiamo scritto manco sulla locandina. Comunque sì, è previsto comunque anche i cambi palco, insomma, serve. Ok, grazie a Stefano, grazie a Radio Onda Rossa, auguri per i 40 anni. Grazie. Onoratissimo di poter contribuire. Dai! Ciao, okay, grazie, ciao.